Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questa puntata parliamo del corso di formazione sulla carità per catechisti, accompagnatori e operatori. Si sta svolgendo, è iniziato proprio ieri, l'ultimo dei corsi al centro parrocchiale di Campolongo Maggiore. Si svilupperà anche questa settimana, giovedì 16, per chiudersi lunedì 20 marzo. È la terza proposta dopo quella che è stata fatta a Limena per la zona centrale della diocesi, a Piovene Rocchette per la zona settentrionale. Un corso che cerca di rispondere a tre domande: cos'è la carità, come si può educare alla carità, quali luoghi, spazi e occasioni possono essere significativi per crescere nella carità. Sono tre domande che aiutano a progettare efficacemente all'interno del percorso di iniziazione cristiana iniziative, incontri e proposte di educazione proprio a questo tema. Fa parte dell'equipe diocesana che si occupa proprio di questo argomento, della preparazione di questi corsi, Alessandra Cipollotti della parrocchia Madonna della Salute del Vicariato di Torre. Beh, innanzitutto siamo partiti come primo approccio, siamo partiti dalla loro esperienza, quindi che idea loro hanno di carità e soprattutto se l'hanno sperimentata anche personalmente su di loro, quindi è stato oggetto di carità. Poi abbiamo avuto provocazione di partenza e ci siamo trovati con alcuni esperti. Abbiamo chiesto loro che una definizione di carità anche secondo la loro esperienza. Abbiamo fatto questa tavola rotonda, abbiamo raccolto delle interventi, i loro interventi, e abbiamo preso il succo, il centro, e abbiamo dato come provocazione iniziale questa loro definizione di carità. E da qui siamo partiti facendo delle domande poi anche personali ai catechisti e questo è stato il primo incontro, praticamente un po' una rivisitazione della loro esperienza e poi una riappropriazione dopo aver ascoltato questi esperti, E Alide diceva, parlava della carità anche riferita alla sua esperienza personale di malattia, quindi lei dava questa definizione: è divino donare ma è divino anche ricevere, quindi il fatto di essere oggetto di carità aiuta gli altri a dare il proprio contributo, a essere attenti e a prendersi cura. E poi c'era anche una direttrice della Caritas di Bologna, se non sbaglio, che anche lei portava come esperienza di carità. Lei diceva che lei incontra il Signore risorto proprio avvicinando le persone con cui lei porta avanti il suo servizio, quindi dei momenti di incontro, di condivisione che gli fanno proprio sperimentare. Portava un'esperienza personale sua che ha sperimentato durante un incontro con una persona ci ha spiegato che cosa la bellezza di questo incontro. Poi c'è stato un gesuita che faceva il paragone fra che la carità è un cammino, un percorso, è un qualcosa che ci lega, un esodo, un uscire da sé e quindi un andare verso l'altro, e faceva l'esempio dell'esodo per Israele. Cioè, sono tanti gli argomenti, gli spunti che sono venuti fuori da questo video che abbiamo montato e che abbiamo proposto ai catechisti. Visto che questi corsi sono poi rivolti appunto ai catechisti, ai formatori, eccetera, in funzione del fatto che poi ne devono parlare ai ragazzi, che attenzione bisogna avere nei confronti dei ragazzi per tentare di tradurre questo tema carità? Poi nel secondo incontro siamo arrivati più nello specifico e abbiamo parlato con un PowerPoint di come si deve strutturare e come si deve pensare un incontro rivolto ai ragazzi, quindi partendo dalla loro, dalla loro realtà, e quindi aiutarli a fare i ragazzi per poter vivere delle esperienze, hanno bisogno che le esperienze siano a loro misura, quindi decidere un po' l'età a cui vengono rivolti questi corsi e aiutarli a fare un'esperienza che sia un'esperienza che mette in moto un po' tutta la persona, quindi il suo modo di pensare, le sensazioni, lo coinvolga emotivamente, lo coinvolga anche a livello della ragione, diciamo, e lo coinvolga anche nell'agire. Quindi li abbiamo aiutati un po' con una scaletta, con un PowerPoint, a pensare a tutti questi passaggi e a pensare a un'attività che sia come che li coinvolga interamente come persone, insomma, non solo ascolto, non solo fare, ma anche essere coinvolti in prima persona emotivamente, quindi mettersi in gioco, ecco. Era un PowerPoint con i diversi passaggi. E dopo, nell'ultimo incontro, invece, li abbiamo aiutati a sperimentare quello che avevamo spiegato l'incontro precedente, cioè a ripensare a un'attività che avevano già fatto coi ragazzi, tenendo presente però una scaletta ben precisa, con degli obiettivi ben precisi, seguendo questa passo passo questa scaletta che abbiamo consegnato loro. E abbiamo sempre mandati a casa con qualcosa, anche nel primo incontro abbiamo mandato a casa col cartaceo con il sunto dell'intervento, ad esempio degli esperti, del video. La seconda volta gli abbiamo dato le slide più significative del PowerPoint, e l'ultima volta gli abbiamo dato una scaletta su cui lavorare per poter pensare a un incontro rendendolo più significativo, cioè un'attività che abbiamo già fatto, pensando però a delle attenzioni verso i ragazzi. Grazie ad Alessandra Cipollotti, che è catechista ed è stata inserita nell'equipe diocesana che ha predisposto i corsi di formazione per altri appunto catechisti e formatori dell'iniziazione cristiana. Un corso di formazione sulla carità si sta svolgendo, l'ultima terza edizione annuale al centro parrocchiale di Campolongo Maggiore. Tutti i dettagli si trovano su ufficio annuncio e catechesi.diocesipadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.